L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Fermi, l'ho preso, fermi! Fermo, babbo, che capo tu fa massa! E si pare il presepe vivente. Comunque c'ha ragione lui, eh. Qui è il triangolo delle Bermuda, anche il telefonino ogni tanto va via il segnale e tu, morto, non torna più, davvero. Qualche volta si sparisce anche noi, non ci ritroviamo più. Allora restiamo isolati dal mondo. Maremma parabolica. Si chiama Digital Divide, è il divario tra chi ha la possibilità di accedere alla tecnologia e chi no. E credetemi, non è cosa vecchia, anzi, tradotta nel 2020 rischia di essere la nuova emarginazione sociale, ma anche economica, tanto che tra i provvedimenti per contrastare gli effetti della pandemia è stato costituito anche un fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Che il problema ci fosse lo sapevamo anche prima, ma in questa situazione si è letteralmente moltiplicato e chi ha perso il treno rischia davvero ora di rimanere fuori. Perché? I motivi possono essere geografici, ci sono zone dove l'accesso alla rete è ancora difficile nonostante gli investimenti, economici perché magari c'è chi non se lo può permettere, lo abbiamo visto ad esempio con gli studenti che si sono trovati in difficoltà perché a casa un computer non ce l'avevano, ma anche anagrafici, ci sono quote della popolazione italiana che non avevano mai usato la tecnologia o non la usano ancora e i riflessi per la nostra economia sono moltissimi. Cominciamo però dalla nostra storia di copertina. Mondo Digitale è un'associazione che da anni si occupa proprio di colmare questo divario digitale, sia fornendo i supporti sia le conoscenze. E uno dei tanti progetti mette in comunicazione la generazione che più tecnologica non si può, quella dei ragazzi, con quella meno tecnologica, quella, chiamiamola, dei nonni. Il progetto si chiama Nonni su Internet e nel lungo lockdown è stato un progetto vincente. Allora abbiamo chiesto di raccontarci com'è andata ad una delle docenti, giovanissima ovviamente, lei si chiama Siria. Io ho 19 anni e in questo momento sono studentessa di Scienze Geologiche alla Sapienza. L'ho conosciuta grazie ad alcuni progetti che abbiamo fatto al liceo, mi frequentavo il liceo scientifico di Volterra a Ciampino, perché si sa che comunque noi ragazzi siamo molto più portati verso la tecnologia rispetto magari ai più anziani. Però devo dire che le lezioni stanno andando veramente bene, fanno tante domande, sono molto interessati. Ho ad esempio i miei nonni che non hanno un computer, non hanno nulla, però mi hanno detto appena finisce la pandemia ci compriamo assolutamente un computer, un telefono, qualcosa, e insegni anche a noi, perché si sono resi conto che è utile. Dicono, stare sempre attaccati a quei cosi, al telefono, al computer, e non vi rendete conto del mondo che c'è fuori. Adesso invece si sono resi conto che probabilmente il mondo è anche dentro, quindi si sono resi conto che ci stanno tantissime possibilità e adesso tanti si pentono di non averle sfruttate prima. Siamo partiti da WhatsApp, la cosa più semplice, diciamo, penso anche la più utile in questo momento. Quindi abbiamo visto tutte le funzionalità di WhatsApp, non solo le videochiamate, ma anche come creare dei gruppi e qui. Poi siamo andati più nel dettaglio e abbiamo visto, non so, come creare una nuova mail, perché alcuni non avevano proprio, oppure, non so, come pagare un bollettino direttamente online. Poi, man mano che siamo andati avanti, all'inizio proponevo io gli argomenti, poi loro stessi hanno iniziato a chiedermi di approfondire determinate cose. E saluto anche l'altra faccia della medaglia, Vittorio Smiroldo, 83 anni, coordinatore dei centri anziani del primo municipio di Roma. Buongiorno, e ci racconta com'è andata? Per noi che siamo maggiorenni è un po' difficile, un po' faticoso. Però, come sempre accade in queste cose, vale sempre lo spirito di sopravvivenza, per cui le cose alle quali potresti rinunciare in condizioni normali, in condizioni eccezionali, finisce per mettercela tutta per venirne fuori. Per cui alcune cose, diciamo, che mi ero sempre rifiutato di fare, vincendo la negligenza, vincendo qualunque altro tipo di condizionamento che puoi avere per utilizzare questi strumenti, poi alla fine ci riesci. Giusto per mettere in positivo è il lato positivo di questa esperienza che stiamo vivendo. Quali sono state le cose più utili che avete imparato? Le cose che sono state più utili sono state come come mettersi in online per pagare certe bollette, come mettersi online per vedere in contatto con i propri familiari, come far funzionare il video con WhatsApp, cioè quello lì, quegli strumenti o quegli accorgimenti che servono ad avere vicini persone che fisicamente in questo momento non potevamo avere vicini. Domanda delle domande, continuerete ad usare la tecnologia? Sicuramente una risorsa che sarà utilizzata molto di più da questo momento in poi, perché le videochiamate servono per sentire, vedere i propri familiari che magari non stanno in città ma lavorano e stanno in altre, o anche se stanno in città sono impegnati col lavoro, per cui necessità ci ha fatto fare dei grossi passi avanti. Cioè, non ci auguriamo un'altra pandemia per apprendere qualcosa, prendere qualcosa in più, però abbiamo capito che certe cose che per negligenza o per indolenza a volte lasciamo da parte, in realtà possono esserci molto utili in certi momenti. E allora grazie, tutto facile? Non proprio. Qual è il divario da colmare? Vi do due dati. Un terzo delle famiglie italiane non ha computer o tablet in casa, secondo il report dell'Istat. Ad avere almeno un device è il 47,2%, solo il 18,6% ne ha due o più. La percentuale di chi non ne possiede sale al 70% tra le famiglie di sole anziani, cioè con 65 anni e più, ma scende al 14% tra le famiglie con almeno un minorenne. E, altro numero che fa riflettere, più di 11 milioni sono gli italiani che restano scoperti dalle reti. Parliamo di zone montane, campagne, periferie, ma anche singoli quartieri di grandi città. Solo nelle tre regioni più colpite dall'emergenza, cioè Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, i comuni e le frazioni in cui non è possibile svolgere smart working sono 2349. E questo ovviamente pesa, allora, anche oggi. Facciamo i conti. E saluto Antonio Filoni di Doxa, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Cominciamo da una premessa: già prima della situazione d'emergenza, in realtà l'uso della tecnologia in tutti i sensi, sia per le capacità di potervi accedere, sia per la possibilità di potervi accedere, non era proprio uguale per tutti. Sì, abbiamo ancora un importante digital divide che è legato a tanti aspetti, proprio anche di territorio, dove le infrastrutture a livello nazionale sono ancora non pienamente sufficienti per permettere a tutti quelli che volessero avere grandi connessioni e quindi poter accedere ai contenuti video, digitali, radio e quant'altro con la stessa qualità in tutto il territorio. Diciamo che questa situazione è stata in molti casi definita come un grande esperimento dell'uso della tecnologia. In realtà, la precedo ma mi corregga, ci sono fattori che incidono: geografici, anagrafici e anche economico-sociali. E aggiungo una quarta, che è una questione anche di abitudine, dove spesso e volentieri noi italiani, soprattutto rispetto anche all'estero, se non costretti a volte non adottiamo determinate anche nuove tecnologie. E faccio proprio un esempio, lo smartphone, per assurdo, siamo stati il paese a livello proprio mondiale con la più alta penetrazione. Quindi amiamo poi adottare determinate tecnologie. Spesso volentieri però anche quando abbiamo visto questa crescita esponenziale di questo device, gli utenti poi lo usavano per fare le stesse cose che usavano fare con il telefono vecchio GSM. Era un oggetto di possesso. Era un oggetto un po' di status, un po' di possesso e poi inizialmente utilizzato al massimo per accedere ad alcuni canali magari digitali e lì ci vediamo magari social, no? Prendo lo smartphone e lì il digital divide è quasi collassato, nel senso che moltissimi anche, definiamoli anziani, visto che in questo periodo di coronavirus ne abbiamo parlato tanto perché purtroppo sono stati anche quelli più toccati, hanno fatto molto più rapidamente il passaggio rispetto ad altre tematiche, che può essere ad esempio la spesa tramite carte di credito rispetto al contante o quant'altro. Quindi sono riusciti a modernizzarsi grazie anche a nuove tecnologie, come dicevamo, il mobile rispetto ad esempio il PC, dove io vedo, sono i miei genitori, hanno molta più affinità con lo smartphone che col PC, nonostante adesso lo abbiano, anche per ragioni smartphone o il tablet, cioè hanno fatto direttamente il salto successivo, un po' come i millennial forse. Bravissima, sì, assolutamente, condivido, è il tema proprio del cambiare postura. Si scherzava che tutti guardiamo il cellulare, abbiamo tendenzialmente, probabilmente le generazioni che arriveranno saranno molto più gobbe dei nostri genitori, perché in qualche modo i nonni e i nipoti stanno insieme in queste modalità di utilizzo, mentre è la generazione di mezzo che è passata dal PC. Assolutamente sì. Io la faccio tornare ai dati da cui siamo partiti. La mappa italiana com'è in questo momento? Vede sicuramente una distinzione tra chi ha figli e non ha figli. Chi ha le generazioni oggi dai i 7 ai 20 anni sono tendenzialmente digitalizzati anche i genitori e potenzialmente anche i nonni, e quindi sono sicuramente quelle fasce che hanno subito meno l'effetto del lockdown e avevano già in precedenza fatto i passi in avanti della digitalizzazione. Purtroppo sui giovani, oggi in un paese come l'Italia, sono una fetta non così poi importante, e ci dimentichiamo poi di altre fette, come ad esempio gli over 65, che sono tanti in Italia, sono quasi 20 milioni, e che grazie alla società moderna potranno vivere ancora tanti anni. E per quanto riguarda le aree geografiche? Allora, per quanto riguarda le aree geografiche, spesso si diceva che il sud è meno moderno del nord. In realtà questo è potremmo definirla quasi una fake news, visto che va di moda. Quello che abbiamo è sicuramente tecnologia meno penetrata in alcune aree, ma che non è vero che sono il sud, ma sono anche banalmente le aree rurali del centro Italia dove non arrivano determinate tecnologie, banalmente dalla fibra. Ma oggi, grazie alla distribuzione, alla copertura di tutto il mobile, quindi grazie ai grandi player, tutti possono essere, e anzi in alcuni casi veramente anche proprio il sud e alcune aree rurali sono più connesse. Sono più svantaggiati chi sta in un'area poco popolata, perché mi conviene meno coprirla, piuttosto che in una determinata regione. Assolutamente sì. Oltre al fatto che poi dipende anche di cosa stiamo parlando a livello di digital divide. Se ovviamente io voglio vedere i Netflix o gli Sky tramite connessione, se ho soltanto la possibilità di essere sì connesso, ma tramite mobile, i giga sono quelli che sono, anche se oggi sono aumentati esponenzialmente. Però ovviamente non avere la possibilità di avere una fibra mi implica automaticamente, probabilmente, a non poter accedere a quel determinato contenuto, perché non potrò sfruttarlo. E quindi quello è ad esempio un limite che solo sviluppo e investimenti di infrastruttura possono andare a coprire, e quindi quello è un tema su cui ovviamente bisognerà fare delle riflessioni. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a voi e buon proseguimento. Insomma, se quella che ci attende è un'economia più tecnologica, lo deve essere per tutti. Buon proseguimento anche da parte mia, da Anna Migliorati, www.radio24.it. A proposito di tecnologia, se volete riascoltarci o scriverci, alla prossima.